Tempo di sport con Carlo Genta. C'è Miss Do Milana, ma me vea budez l'om di moie carriere. Vira il somnio, oie asza. Beh, questo non è Mare Kamsic, questa è Irina, facciamo così, la nostra speaker slovacca ufficiale. Però non è la voce di Mare Kamsic, ma sono le parole che Kamsic ha detto. Voglio andare al Milan, non ho vinto niente fino a questo momento, è il momento di cominciare. E oggi a Napoli è il giorno dei numeri, 90 come la paura, 17 come il numero di Kamsic, che peraltro, ma poi parliamo anche di questo dettaglio, non è finito sugli zainetti del merchandising ufficiale. Ragazzi, sono solo Lavezzi e Cavani, Kamsic no, magari De Laurenti si aveva già capito qualcosa. C'è un terzo numero che ancora non è chiaro, e però non è X, cioè la cifra che serve per lasciare senza fiato Aurelio De Laurentiis, che oggi ha detto, c'è stato del sensazionalismo giornalistico intorno a lui per fare un assist a qualcuno, e De Laurentiis ha molto insistito su questo qualcuno, senza dire il nome, ma lasciandolo chiaramente intendere, questo qualcuno è il diavolo di Milano. Per dunque fare un assist a qualcuno e far uscire il ragazzo allo scoperto. Dico che è incedibile, se lo vogliono, dice De Laurentiis, devono lasciarmi senza fiato. Carlo Laudisa dalla Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Carlo, ciao a tutti. Arriva Kamsic a Milano, prenderà il treno per Milano? Ma è presto, per ora vediamo qual è la battaglia di nervi che risultati produrrà da qui a poco, perché poi ci sarà il raduno, quindi Kamsic non a caso ha parlato a un giornale slovacco lontano dai clamori, a dire la verità aveva già parlato anche tre settimane fa durante la partita nazionale con il collega Nicola Cecere, era stato non così esplicito, ma i concetti erano già stati paventati, quindi nessun sezionalismo, è pura cronaca, se tale può piacere o no, però la Gazzetta dello Sport credo che sul mercato da sempre cerchi di coniugare i due verbi, quello del lavoro sulla cronaca e poi dell'informazione ai lettori, quindi a tutti i tifosi di tutta Italia, perché sì. La Gazzetta, credo poi oggi il mio direttore ha scritto sull'argomento, quindi credo che chi voglia approfondire questo concetto possa essere già soddisfatto. Ma io credo che anche le parole di Laurenti sul sensazionalismo mi sembrano sensazionali, le sue però. Sì. Beh, lui dice il disegno è chiaro, qualcuno ha indotto Kamsic ad uscire allo scoperto, questo qualcuno è il Milan attraverso i procuratori del giocatore, come dice De Laurentiis, procuratori che sono per la cronaca Josh Venglos, correggimi se sbaglio, con Raiola consulente, Raiola in questi ultimi 12 mesi grande amico del Milan, gli hanno detto senti, di così che poi almeno muoviamo le acque e vediamo di portarti a casa. Questo è quello che ha detto De Laurentiis, questo è il disegno che De Laurentiis si immagina. Io non so se sia un disegno, qui c'è una volontà espressa da un giocatore, da un professionista che pur vero il 23 settembre scorso ha sottoscritto un contratto quinquennale con il Napoli, quindi questo va ricordato, però evidentemente in questi mesi si è reso conto di che quella firma è stata un po' troppo pesante, non è un caso che abbia affiancato adesso Raiola a Venglos, quindi questa scelta del giocatore è con vista Milan, ma io la conclusione che traggo è che lui sente l'esigenza di cambiare maglia. Sì. Ora sarà il Milan, sarà la società che volete voi, scegliamola, ma se Kamsic non ha più feeling con il Napoli, è un problema interno al Napoli. E poi può essere chiunque a metterlo in condizione di cambiare e di andare via, non credo sia questo il problema, per cui io ai disegni e al contro qualcuno non credo, il calcio mercato si basa su questo, anche perché quando un giocatore cambia maglia c'è sempre qualcuno che lo vuole e che lo lusinga, e quindi è a tutte le latitudini. Sì. De Laurentiis è stato molto bravo a creare quel miracolo Napoli, gli auguriamo di essere altrettanto bravo a difenderlo, e sì, non è facile. Anche per perché cui... è evidente da questa storia che nella percezione anche dei giocatori, il Napoli, nonostante la Champions League, non è ancora considerato come un top club, è evidente nelle parole di Hamsik. Senti, ma secondo te il Milan è più vicino o guarda con maggiore attenzione effettivamente ad Hamsik o a Fabregas? Allora, in questo momento è difficile ipotizzare che il Milan faccia un'offerta per Fabregas. Non mi aspetto che lo faccia per Hamsik, assolutamente per Fabregas, che peraltro in queste ore si parla ormai da preminente il suo passaggio al Barcellona. C'è anche un passaggio fondamentale in questo video di mercato. Hamsik si è esposto e si percepisce che ha voglia di vestire eventualmente la maglia del Milan. Fabregas è da tempo promesso al Barcellona, non so se per il Milan può essere un giocatore motivatissimo e con costi almeno doppi, se non tripli, a quelli di Hamsik. Sì. Quindi mi riferisco all'ingaggio. Sì. Per cui la ritengo una sirena assolutamente mediatica, quella di Fabregas. Quella di Hamsik dovremmo avere pazienza, certo, perché il Milan sicuramente sta giocando al gatto col topo. Sì, questo l'avevamo capito, e poi proviamo a ripercorrere divertendoci un po' questa vicenda. Un'ultima cosa, ma mettiamo che Hamsik vada via tra un mese, il Napoli chi prende al suo posto? Quanto vuole il Napoli per Hamsik innanzitutto? Mi sembra 40 milioni. E chi prende il Napoli per chiudere suturare questo buco al cuore? Si parla il nome, parliamo sempre di giocatori argentini, perché si va da Pastore, che sarebbe il sogno, ma anche se su questo giocatore ci sono lusinghe inglesi, soprattutto del Chelsea. Poi c'è il nome di Alvarez, è stato fatto, ma anche lui credo che sia destinato in Inghilterra, nonostante l'Inter. Quello più possibile può essere la Mela, su cui però c'è anche la Roma. Sabatini si è mosso per tempo per questo giovane talento del derelitto River Plate. Sì, altro che derelitto, retrocesso sì. River Plate. Grazie Carlo, un abbraccio. Grazie a voi, grazie, un abbraccio, ciao. Dunque, con Carlo Laudisa, dunque, abbiamo aperto i giochi, adesso aspettiamo voi. 800240024 il numero verde, soprattutto i napoletani. Ma cosa ne pensate di Hamsik che vuole andare via? Io ho Tina da Genova che mi manda un messaggio. Non è un massacro mediatico contro Hamsik, scusa, ma uno non può aver voglia di cambiare aria, non è reato. Anche lei un domani vorrà cambiare radio, un diritto, c'è da dire, cioè è un diritto, ma ci sono anche dei contratti, e quello di Hamsik è stato firmato da pochi mesi per 4 anni, per 4 stagioni ulteriori. Non credo che siano poi così cambiate, no, le condizioni, anzi semmai sono migliorate con la certezza l'anno prossimo di giocare in Champions League. 800240024, magari poi le voci dei milanisti che diranno ma no, io preferisco Fabregas, ma Hamsik mi piace o non mi piace, insomma esprimete le vostre opinioni. Io dopo il traffico vi faccio un riassunto delle puntate precedenti intorno a Marek Hamsik. Qualche milanista che vorrebbe cogliere la mela come Miki invece dello slovacco del Napoli. C'è chi domanda ma la clausola rescissoria non esiste. Non esiste se viene apposta ad un contratto. C'è invece Rosella Sensi che da oggi farà la mamma, lo ha detto poco fa tra le lacrime al termine del consiglio d'amministrazione della Roma, che ha sancito le dimissioni della famiglia Sensi dalla società giallorossa. C'è anche El Niño Maraviglia che fa sapere o Barcellona o muerte, no, in realtà o Barcellona o niente, dice Sanchez, che non gradisce, stando a quanto rimbalza da Sud America, altre destinazioni. 27 milioni che il Barcellona potrebbe dare all'Udinese, lo ricordiamo. Dunque, torniamo ad Hamsik per fare un rapido riassunto delle puntate precedenti, a cominciare dal suo attuale presidente De Laurentiis. Cosa disse qualche tempo fa, ma cosa ha ribadito oggi? Devono lasciarmi senza fiato, ha detto oggi, qualche tempo fa aveva detto così invece. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, bene amati soldi, perché chi tanti soldi vive come un pascià e piedi caldi se ne sta. ce l'hai, so, perché veda, quei straordinari pochi tifosi che mi, quando mi incontrano, fanno cacci i sordi, anch'io dico al Tottenham, ma cacci i sordi, ce li ha, perché a parlare si fa presto. Cacci i sordi, adesso io prenderò in giro tutti quanti dicendo cacci i sordi, anzi mi devo trovare in napoletano un modo di dirlo in inglese. Ecco, spende the money. Chi tanti soldi vive come pascià e piedi caldi se ne sta. Il concetto era già chiaro allora, è stato ribadito adesso. Devono lasciarmi senza fiato cacciando i sordi, dice De Laurentiis. Quanti? 40 milioni! E quei 40 che magari potrebbero servire, chissà, per andare a coronare il sogno Pastore. Certo che se dopo Cavani arrivasse Pastore sul punto di esplodere, lo facesse proprio in maglia azzurra anziché in maglia rosa-nero, poi bisognerebbe capire come la prenderebbero i tifosi del Palermo. Dunque, De Laurentiis e caccia i sordi. Quanto al fronte degli acquirenti, al fronte milanista, le dichiarazioni nel corso degli ultimi giorni sono state più o meno così. Però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità. Ma quale AMS? Non abbiamo, ha ragione De Laurentiis, mai chiesto AMS. Escluso nella maniera più assoluta. Ma no, la maniera più assoluta non esiste al mondo, ma nessuno mai chiesto AMS. Aurelio è un caro amico, quindi lui ha il diritto di valutare i suoi giocatori come crede. A questo punto della vicenda AMS non è mai stato un nostro obiettivo, AMS sta a Napoli, Pato a Milano e siamo contenti di tutti e due. All'Hotel Vesuvio mi hanno sottoposto e costretto ad assumere un altro impegno. Lo vuoi sapere? Ovviamente sì. Mi hanno fatto giurare che il Milan non comprerà Amsi. Caro Presidente, questa è una cosa molto seria. Amsi non si tocca. Però amico De Laurentiis, poi bisogna capire se si sono ricordati di avvertire Mino Raiola: guardate che Hamsik non lo compriamo più, non lo vogliamo, Hamsik non lo vogliamo, come disse il presidente del consiglio del Milan soprattutto il giorno prima, chiudendo a Napoli la campagna elettorale prima delle amministrative. Questa dichiarazione insomma è abbastanza storica, oltre che attuale, peraltro. Poi magari non hanno avvertito Raiola e Raiola ha detto: guarda che dovresti fare un po' di casino così perché riapriamo sto discorso, ma non lo so. Michele, provincia di Salerno, primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24, numero verde. Michele, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a lei. Guardi, io volevo prendere spunto dalla vicenda Hamsik per dire che anche i protagonisti di uno sport bellissimo come il calcio sono comunque colpevoli, tra virgolette, di questo stato di salute del calcio stesso. È impensabile che un professionista qualche mese fa firma un contratto per 5 anni. Io penso che nel momento in cui lo stava firmando si impegnava a fare quanto di meglio potesse fare nei futuri 5 anni. Oggi ha fatto un buon campionato ed è pronto lì a battere cassa, voglio dire. Noi che comunque facciamo dei sacrifici per andare a vedere una partita di calcio siamo amareggiati. Io sono un tifoso juventino, quindi lo dico in nome dello sport. Tra l'altro c'è un presidente come De Laurentiis, non simpaticissimo a volte, ma tutto gli si può negare. No, a me è simpatico, che, io posso dire, a me è molto simpatico. Tranne che comunque, vuoi dire, si è svenato per salvare una situazione come quella napoletana. Poi magari ti vedi presentare un ragazzo come Hamsik, per l'amor di Dio, che non penso giochi gratis a Napoli, che ha firmato un quinquennale qualche mese fa e ti dice: no, io voglio andare al Milano, ma non, cioè, non è che sta giocando col Cesena, con tutto il rispetto del Cesena. Michele, però faccio presente anche altre cose, al di là della scarsa moralità, no, che gira, però non ho voglia di fare discorsi demagogici e pomposi perché non mi sembra il caso. In fondo è un gioco molto costoso fatto da gente con il pelo sullo stomaco, che sono sì giocatori ma soprattutto i procuratori, no? È vero che queste dichiarazioni non piaceranno al datore di lavoro che è depositario di quel contratto firmato, però abbiamo visto quest'estate Leonardo che dice all'Inter vado a Parigi perché non so, non l'ha ancora detto, non mi pare ci siano state conferenze stampa ufficiali, ma sono in attesa, vado a Parigi perché è la città dell'amore ed è una città adatta a me, dirà. Poi c'è stato lo stesso Eto'o, che pure è, passa per essere, ma credo che sia un signor professionista, che dice beh, tutto sommato sì, ho il contratto con l'Inter, però Premier League non mi spiace mica, magari potrei anche pensarci, fare due conti eccetera. Snyder che mette tutto nelle mani dell'altissimo, tutto il suo futuro. Poi c'è, insomma, possiamo fare una lista interminabile, no? A partire dal capostipite e tutto sommato più onesto di tutti, Zlatan Ibrahimovic, che cambia una maglia all'anno, va lì, la bacia e dice vi farò vincere, poi mantiene la promessa e incassa i soldi come qualunque brava professionista, qualunque brava professionista. Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, dica Luca, con chi sto parlando? Stavo ascoltando la telefonata in sottofondo, ma non riuscivo a capire chi era il mio interlocutore. Dunque, io direi che vi faccio sentire anche un'altra cosa, perché insomma stanno facendo il merchandising del Napoli, no? Tra poco i supermercati, gli ipermercati saranno invasi dai prodotti griffati anche e soprattutto delle varie squadre. Ebbene, il Napoli ha prodotto materiale scolastico, zainetti, diari, libri, che ne so io, con due identità ben precise, con due numeri ben precisi, quello di Lavezzi, quello di Cavani. E quello di Amsic? No, quello di Amsic no. Ecco gli zaini di Lavezzi e Cavani per studiare da veri tifosi. L'unica e originale collezione scuola di Lavezzi e di Cavani. Ma come? Amsic dov'è? Che De Laurentiis avesse già previsto tutto? Che De Laurentiis avesse già capito che insomma l'anno prossimo non potrà contare su questo giocatore? La domanda interessante è adesso chi il Napoli potrebbe prendere. Come sappiamo c'è questa curiosa coincidenza tra il cartellino del prezzo apposto sulla schiena di Amsic e quello che a quanto pare sarebbe il costo di Pastore, 40 milioni. Raffaele Auriemma, voce molto nota e molto cara ai tifosi del Napoli, telecronista di Mediaset, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a te, è una giusta osservazione quello che hai fatto. Sì, tu dici? Può darsi pure che corrisponda al vero, sai, 40 qui, 40 lì. 40 qui, 40 là, e poi se Pastore fa quello che Cavani ha fatto, bisogna fare un giro a Palermo e fare due chiacchiere con i tifosi del Palermo. Andiamo subito da Santa Rosalia. Santa Rosalia. E consegniamo un bel bouquet. Dimmi una cosa, tu che li conosci, ma è chiaro che a questo punto Amsic ha già tradito, no? E per una folla passionale come quella napoletana è qualcosa che sarà difficile dimenticare, anche se dovesse rimanere con quella maglietta numero 17, colore del cielo. Credo che tu abbia colto nel segno, perché i commenti qui a Napoli sono tutti su questo versante. La parola più morbida che gli hanno detto è quella di traditore. È chiaro che c'è anche chi magari un po' più conciliante nei suoi confronti, più garantista, vogliono aspettare che quelle parole le dica lui direttamente a questa piazza, perché era quello che voleva sentirselo dire attraverso un giornale slovacco, per cui devi anche andare a tradurre quello che dice. È stata una cosa un po' antipatica per la piazza di Napoli. Sì. Doveva scegliere, non so se un altro momento, ma certamente un altro mezzo, venire qui a Napoli e parlare pubblicamente dicendo. Quindi tu mi stai dicendo che Amsic ha chiuso con Napoli? Ma io credo di sì, non vedo la possibilità né di passi indietro né di ricomposizione della faccenda. Dopo quello che ha detto, il mio ciclo a Napoli è chiuso, sono giovane sì, ma voglio alzare una coppa, il Milan per me è la svolta, cioè cosa ti deve dire di più? Vaffa? Non credo, capito? Sono parole eloquenti, frasi molto sì, credo anche pensate, sì, costruite. Beh, non si è svegliato una mattina e ha detto quelle cose, evidentemente no, ha avuto un suggerimento da dietro le quinte. Ma poi conoscendo Amsic, che qui a Napoli non si è mai sbilanciato di una virgola, sai, dichiarazioni sempre equilibrate, nonostante la giovanissima età, grande equilibrio, manifestazioni d'amore nei confronti di questa piazza, improvvisamente. Non è che dice io un giorno vorrei andare, no, dice io voglio andare adesso perché è la svolta. Quindi sì, quindi non ci sono alternative. Raffaele, ti ringrazio e ti abbraccio. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, te, grazie, alla prossima. Mio caro Alberto, non mi sembra il caso, non mi sembra che sia il caso di chiarire quel parallelo che ho fatto tra Ibrahimovic e qualche brava professionista che in cambio di tanti soldi garantisce uno splendido risultato, no? Mi sembra di essere sufficientemente esplicito. Io ho grande rispetto per entrambe le professioni, direi. 800 24 00 24 è il numero verde. Io ho passato tutto questi pochi minuti a tentare di asciugare le lacrime di Marco Belinazzo, che è sceso disperato dai piani alti del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ti portano via Amsic. C'è anche chi dice, chi scrive peraltro: visto il risultato delle amministrative, penso che Berlusca voglia vendicarsi acquistando lo slovacco. Beh, io guarda, mi sono consolato abbastanza, insomma, in questi pochi minuti di chiacchiere, perché avevo un'amarezza legata più che alla trattativa in sé, che è nota da parecchi mesi e che non ha visto e non ha capito solo chi non voleva vedere e capire, per le modalità con cui si sta verificando questo distacco. L'impressione che Mino Raiola sia stato assunto per mettere in pratica la solita attività corrosiva per colpire ai fianchi e cercare di far scendere il prezzo, e che si adottino attraverso Amsic queste sembri De Laurentiis. Queste politiche mi sembra molto triste. Cioè, qualcuno a cui oggi fa riferimento più volte De Laurentiis, qualcuno agevolato dai procuratori fa in modo che sia il ragazzo a venire allo scoperto. E quando dico che Amsic è incedibile, dico il vero, e adesso fatemi girare la testa, fatemi una proposta indecente. Questo qualcuno ha la coda, le corna e il forcone? Beh, no, ha le sembianze di Mino Raiola, che sta facendo un lavoro ufficiale. Qualcuno dice che è agente, non è agente, aiutante, assistente. Ma il mandante è il vecchio diavolo. Beh, il mandante è il Milan, che ha individuato da parecchio tempo, legittimamente, in Amsic un rinforzo, ci mancherebbe altro. Il problema è che forse le società italiane non hanno tanti soldi da spendere, e quell'asticella dei 35... Il Milan ha 40 milioni? 40 milioni impossibile, nessuno può spendere 40 milioni in Italia, chi lo dice, insomma, mente sapendo di mentire. Il Milan può spendere 20-25 milioni, si potrebbe chiudere a 30 milioni più un paio di giocatori. Questa può essere... Boateng? Ecco, Boateng e qualcun altro. Io ora scherzando non dovrei dirlo, ma ho avuto modo di chiacchierare con Galliani al workshop del Milan, insomma, in un contesto così apparente assolutamente disteso, e si scherzava appunto su Amsic. Io gli ho chiesto di non prenderlo, lui mi ha garantito che Milan non lo sta cercando, forse Amsic deve andare al Milan. Gli ho chiesto in cambio Boateng, lui sarebbe disposto a darcelo, però Boateng quello che gioca gli allievi nazionali, non il Kevin Prince Boateng, su cui insomma il Milan conta parecchio, conticchia, sì, ora, sì, sì. Io, tornando un attimo sul campo da gioco, insomma, potrebbe essere anche un affare per il Napoli vendere Amsic a un certo prezzo, facendo ovviamente un acquisto prospettico ma anche valido per la Champions. Ecco, sono le modalità con cui, ripeto, questo distacco si sta realizzando che mi lasciano abbastanza l'amaro in bocca e disincentivano poi i tifosi a seguire il calcio, perché appunto sentivo prima una telefonata di un ascoltatore che ci diceva, insomma, uno va a firmare un contratto, si impegna per una squadra, c'è una città poi che lo ama parecchio, Amsic, che poi lasciami dire una cosa, vincere uno scudetto a Napoli non è bello, insomma, è talmente bello che anche vincerne 4-5 da un'altra parte, insomma, non dà le stesse soddisfazioni. Io torno al discorso di prima sulla scorta di un messaggio: la professionista non ti giura fedeltà, Ibra sì, ma anche qui, caro ascoltatore, dipende dal compenso, perché ti giura anche fedeltà eterna la brava professionista. Antonello da Napoli, Lorenzo da Trento, Vincenzo da Napoli. Antonello, buongiorno. siamo per l'evento di Berlusconi a Napoli su Amsic. Sì. Sicuramente non sono un tifoso, però su partenopeo si sono rimasto un po' male per la strumentalizzazione dei napoletani, visto che ci sono altri argomenti molto più importanti. Sentivo un boato e un'ovazione. Sì. Berlusconi ha detto quella cosa e mi ha dato un po' fastidio, tutto qua, volevo dire. Sinceramente un po' inadeguato, ecco. Sì. Qua chi? Berlusconi? Sì. Poi magari non lo compra davvero, sì. Ovviamente dai napoletani, perché invece di pensare ai problemi che ci sono si accontentano di un giocatore che rimane in squadra. No, questa è un'affermazione corretta. Questa è un'affermazione corretta. Antonello, i problemi sono altri, però insomma non stiamo neanche lì a fare un po' di demagogia solita, no? Se sì, c'è la monnezza per la strada, allora non possiamo pensare al calcio. Insomma, possono convivere le passioni e i problemi quotidiani di ogni giorno facendo le opportune. E lo show business. E lo showbiz. Che tra l'altro vedo sei sceso armato di dati relativi alle TV, per cui domani si scanneranno in Lega, tra un attimo ne parliamo. Lorenzo Trento, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Genta. La chiamavo perché volevo precisare una cosa su Hamsik. Io sono un po' milanista, diciamo, e credo che Hamsik non serva molto al Milan, ma a parte questo, sentito prima che dicevate che il buon Hamsik ha firmato un quinquennale per cui avrebbe dovuto, ma insomma le società devono tutelarsi, perché se non fanno firmare i contratti lunghi poi vanno a scadenza e vanno via gratis. Sì. Sì, è un gioco che conviene ad entrambe le parti, esatto, di entrambi. Io dico ai tifosi del Napoli, intanto auguro che Hamsik rimanga lì, perché i tifosi del Napoli sono comunque diciamo da tutelare come il panda. Poi non siamo messi così male, però. Non devono dare colpe ad Hamsik, perché questa cosa è un gioco delle parti. Sì. Chi firma il contratto quinquennale per costare di più, eventualmente se va via fa prendere i soldi al Napoli, quindi insomma non mettiamo la croce addosso ai giocatori, che è vero che fanno quel mestiere che dice lei, Sì. Con la destra firmi il contratto e con la sinistra accarezzi l'amante, facciamo così. Esattamente, ecco. Dopo però dobbiamo anche ammettere che noi tutti vorremmo trovarci al loro posto e anche con più braccia per firmare. Sì, caro Lorenzo. Tanto si sprecano anche le indiscrezioni e si sprecano le indiscrezioni degli ascoltatori, ma anche i tentativi di consolazione di Marco Berinazzo. Si consoli, non perde un fenomeno, al massimo un ottimo calciatore, scrive Roberto d'Arezzo. C'è invece Claudio che scrive: ero in crociera 20 giorni fa assieme ai giocatori del Milan, c'era anche Hamsik, adesso ho capito perché. Beh, allora se vogliamo parlare di retroscena, due settimane fa o poco più, una industria di giocattoli che di solito collabora con il Napoli, giocattoli e vari strumenti per la scuola, dai diari ai quaderni che utilizza il marchio Napoli. Ho appena fatto sentire lo spot. Ah, ecco, vedi, siete avanti. Cavani e Lavezzi, Hamsik dov'era? La società poi ha detto che insomma, si trattava di una scelta e che poi insomma, su altri prodotti sarebbe stato utilizzato il faccione e la cresta di Marek Hamsik. Evidentemente insomma, le retroscena sono tanti. Io non credo che vada in porto questa trattativa, a meno perché De Laurentiis non ha bisogno di vendere Hamsik. Chiaramente di fronte a una grande offerta, se ci fossero valide alternative lo farebbe. Il Napoli sta costruendo una squadra per la Champions, si sta sforzando molto sul mercato, sono tante le operazioni concluse, quelle che saranno concluse tra poco. E tra l'altro se Hamsik vuole andare al Milan a vincere, perché ritiene che al Napoli non possa vincere, secondo me fa un grande errore, perché il calcio italiano sta andando verso un'epoca di grandi cambiamenti e non è detto che l'attuale gerarchia delle squadre resti tale, come per esempio testimoniano le indagini demoscopiche che sono arrivate al tavolo delle società. Dicono come la Juventus perde un sacco di appeal, un sacco di tifosi, un sacco di telespettatori e alla fine potrebbe perdere pure un sacco di soldi. Vincenzo da Napoli, ma lei perdonerebbe Hamsik dopo questa uscita? Cioè se facesse marcia indietro o se De Laurentiis non trovasse questa proposta indecente per strada e dunque rimanesse col 17 color del cielo, sarebbe perdonato? Allora. Buongiorno a tutti. Salve. Allora, io vorrei fare un appello a tutti i tifosi del Napoli. Qual è? cioè praticamente a noi il presidente non ci ha regalato altro che gioie, no? Sì. Da quando è arrivato, quindi dobbiamo solo fidarci del presidente e andare avanti. E poi vorrei ringraziare Amicic per quello che ha fatto e salutarlo, perché poi Napoli vive di pane e calcio, non è sì. che vive di altre cose. Ma quello che le chiedo io è Amsic con queste dichiarazioni ha rotto con Napoli, anche se, cioè se resta sì. potrebbe sì. avere fischi o potrebbe avere una vita difficile a Napoli? Se queste parole sono state dette da Amsic, Amsic ha rotto con il Napoli. E da chi se no? No, io non ne sono sicuro perché non l'ho letto e lo sto sentendo per radio, però se effettivamente queste parole è un'intervista di Amsic, Amsic ha rotto con il Napoli e se ne va dal Milan, perché poi... Le ripeto, Napoli vive di calcio, di pane e di calcio. Ah. E nel momento in cui un giocatore dice voglio andare al Milan, che sinceramente proprio non dice voglio andare al Genova, che è un nostro gemellato magari. Sì, sì, sì, voglio sì. andare dal diavolo, e il diavolo non è esattamente nemico del amico del ciuccio, lo sappiamo bene per antiche storie di Campanile, bellissime peraltro. Tu lo perdoneresti? Guarda, a differenza di altri casi analoghi che abbiamo raccontato, Thiago Silva, Eto'o, insomma non c'è stato da parte di Amsic nemmeno il tentativo di correggere o di, come dire, dare la colpa allo slovacco, che è una cattiva traduzione. Per cui... è molto difficile dire in questo momento, i napoletani insomma non sono contro Amsic, si sentono traditi, però sono anche i tifosi insomma disposti a perdonare, sarebbero secondo me tra qualche mese disposti a perdonare con un paio di gol in Champions, insomma, sì. potrebbero dimenticare. E quindi la folla è femmina. Ah, quella di Napoli poi femmina particolarmente per definizione, per definizione. 800 24 00 24, siamo qui oggi fino alle 3, ma anche domani, dopodomani e fino a venerdì tutti i giorni. Sergio Roma, buongiorno. Buongiorno, intanto premetto e condivido tutto quello che lei ha detto finora sulla vicenda, le sue osservazioni, quelle più serie, quelle più ironiche, sì. che poi stanno un po' tutte nella stessa, nello stesso contenitore, perché anch'io penso più o meno questo del mondo del calcio, che poi è da accostare un po' al mondo del lavoro in assoluto, di chi fa lavori ma anche molto ben retribuiti. Sono anch'io napoletano. Non del tutto legali. Come? Non del tutto legali, magari. No, certo. Ma io un'osservazione volevo farla sulla telefonata precedente. Sono un napoletano che vive lontano da Napoli ormai da un po' di anni, ma i napoletani vivono molto di pane e calcio, sono forse un tipo di pubblico molto particolare, per fortuna direi non vivono solo di pane e calcio, perché sono persone che magari riescono a occuparsi anche di altre cose, il calcio lo vivono con grande passione. Io su Amsic non sono tanto sorpreso del fatto che il ragazzo, un ragazzo di 24-25 anni, voglia fare altre esperienze, e credo che dovrei forse usare un'espressione che mi è stata sempre molto antipatica, perché è un po' troppo maschilista, quella di avere le palle. Mm-hmm. E io lo considero i giocatori che sono capaci di provare a stare in una realtà calcistica che ha avuto un buon passato, anche a livelli molto alti con Maradona, sta provando di nuovo a vincere. Quando tu vinci lì, hai vinto veramente, e non perché sicuro. Vincere a Milano, le due sponde, o a Torino sia falso, sia più facile, è più facile. La partita, il Napoli è riuscito a Sergio, diciamo che quello che ti può dare Napoli, se le regali uno scudetto, insomma, lo conoscono solo quelli che ci sono riusciti, qualunque cosa, no? La soddisfazione di uno scudetto a Napoli penso che non abbia pari, però io capisco anche chi dice: beh, io posso inseguire quest'utopia, dimostrare di avere le palle e stare qui, come ha fatto ad esempio Totti per tutta la carriera, oppure chi dice va bene, adesso sono stato qui, ho dato quello che dovevo dare, ora vado in un club che effettivamente mi permette a fine stagione di fare due giorni di festa con lo scudetto sul petto, con una coppa in mano. Questo sì, è, questo è vero, però ecco, l'esperienza è diversa, non c'è dubbio, la natura dell'ambiente è diversa, anche i favori di cui si gode giocando in una squadra di quel livello è diversa. Io non posso dimenticare, stavo dicendo prima, che il Napoli quest'anno ha perso nettamente una partita a Milano, la peggiore che abbia giocato, e anche lì ci hanno dovuto mettere un rigore che non stava né in cielo né in terra. Ma insomma, lasciateci perdere 3-0 senza il rigore, non c'è bisogno sempre. Quindi il giocatore che va a giocare a Milano con l'Inter, col Milan o anche con la Juve, per quanto super disastrata, una cosa sappia, che là sarà più facile che vince, perché troverà sempre un segmento del campionato in cui la sua squadra verrà spinta in qualche modo in avanti. Sì, però Sergio, il Napoli quest'anno non mi sembra il caso di tornare su questi argomenti, la data le ha prese, quindi secondo me un grande nemico di questa stagione del Napoli è stato un certo eccesso di vittimismo che qualche volta si è intravisto al di là di quel rigore di Milano. La ringrazio. Marco Berinazzo, spiegami quelle tabelline, perché domani si scannano in Lega? Beh, ci sono quei famosi 200 milioni del vecchio contratto, ma c'è soprattutto da capire come andare poi a trattare, con quali criteri ripartire i soldi che le TV dovrebbero dare dal 2012 al 2015. Si era parlato di un possibile accordo, insomma, ne avevamo scritto anche aumentando la parte legata al merito e dando meno spazio invece a questi famosi bacini di utenza. Ieri però sono arrivate i risultati delle indagini demoscopiche che le piccole avevano commissionato e su cui le carte bollate si sono sprecate, hanno dimostrato che forse le piccole avevano ragione inserendo quel criterio dell'Auditel a puntare su quello, perché in effetti ne è uscita una graduatoria molto diversa da quello che le big si aspettavano. C'è chi perde 10, chi 15, chi 20 milioni tra le grandi squadre rispetto a quelle che erano le aspettative, per cui l'ipotesi di accordo, domani c'è la Lega, che negli ultimi giorni sembrava profilarsi, pare invece tramontato e domani potrebbe assistersi all'ennesima miope battaglia in Lega, con questa discussione infinita che da oltre un anno paralizza il calcio italiano, senza che si riesca invece a guardare agli altri problemi, a puntare su altre vie alternative per aumentare i ricavi. Gio, però sul Corriere della Sera di ieri Mario Sconcerti faceva un'analisi molto attenta, spiegando come alla fine i piccoli club italiani siano forse in Europa quelli che guadagnano di più dei diritti televisivi. Beh, la vendita collettiva voluta dalla legge Melandri punta a questo, cioè ad aumentare far aumentare i ricavi delle società di medie dimensioni. Non a caso Lazio, Palermo, Udinese, Fiorentina sono quelle che guadagnano di più da questo tipo di ripartizione, per aumentare la competitività interna. Il problema è che, sottraendo risorse alle big, non avendo il calcio italiano altre vie alternative per guadagnare, finisce per invece impoverire il calcio italiano rispetto alle big del calcio internazionale. Cioè, alla fine qui c'è più livellamento. Sconcerti pure notava un'altra statistica molto interessante, cioè il fatto che siamo riusciti negli ultimi anni a portare 9 diverse squadre a giocare la Champions League, cosa che negli altri campionati se la sognano, no? Perché c'è una lotta per lo scudetto che è confinata ad un paio di club, Spagna, ovviamente mi riferisco ai principali campionati. Poi c'è la buona borghesia che lotta per la Champions, sono 3-4 squadre, un paio ci vanno. In Italia c'è una base democratica molto più allargata. Sì, partiamo da una considerazione molto semplice che ci dà il senso di questa storia. Barcellona e Real Madrid incassano oltre 150 milioni dai diritti TV, perché lì la vendita non è collettiva e introitano il 60% dei guadagni da diritti TV di tutta la Liga Spagnola. Le altre devono accontentarsi delle briciole. Da noi non è così, perché Juventus, Milan e Inter prenderanno 70-80 milioni a seconda poi dei vari criteri, ma le altre arriveranno a 30, 40, 50, quindi c'è un maggior livellamento. Però è chiaro che chi guadagna 150 ha il doppio di soldi da spendere di chi ne guadagna 70, e con il fair play finanziario questo diventa determinante per la competitività. Dunque, io farei un salto, un flash, visto che stavamo parlando d'Inghilterra, proprio lì, ma a Wimbledon, dove c'è Alessandro Merli, perché voglio ricordarmi e ricordarvi cosa succede oggi. Ciao Alessandro. Buongiorno, oggi è quello che qui chiamano Ladies Day, cioè la giornata delle signore, perché si giocano i quarti di finale del singolare femminile. Purtroppo, se vi leggo i nomi delle 8 giocatrici che giocheranno, credo che la maggior parte delle persone che non sono strettamente appassionate di tennis faranno fatica a riconoscerne più di una o due: Sabine Lisicki, Marion Bartoli, Dominika Sibulkova, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Svetlana Pironkova, Tamira Paček, Victoria Azarenka. Sembra un elenco del telefono di un paese al di là della cortina, dell'ex cortina di ferro. Le signore ci sono, tutte, ma sono diverse da quelle che si immaginavano. C'è a questo punto Maria Sharapova, che è la più nota dell'otto, la più bella dell'otto e anche forse quella che gioca meglio in questo momento. È notte, la più nota, più bella, la più glamorous e anche quella che ha già vinto a Wimbledon qui nel 2004, però naturalmente le altre sono le giovani forze del tennis, non le conosciamo anche perché molte di loro sono sono giovanissime, sono sparite dal tabellone le due Williams. Sicuramente c'è un cambio della guardia, devo dire però anche molto spesso un tennis molto noioso, fatto di colpi insistiti da fondo campo, di grande potenza ma non di una grande sensibilità né tattica né tennistica, quindi è un po' difficile eccitarsi per una giornata come quella di oggi. Forse c'è anche da pensare alla grande occasione che hanno perso le nostre, sia sì, Flavia Pennetta che Francesca Schiavone, con un campo di contendenti del genere in cui non c'è una vera e propria favorita. Forse era questa la volta in cui veramente una giocatrice italiana avrebbe potuto fare progressi a Wimbledon, non dico arrivare alla finale, ma comunque almeno alle soglie della finale. Hai ragione Alessandro, soprattutto mi ha insomma deluso, mi ha colpito l'eliminazione precoce di Francesca Schiavone, che lo stesso Vincenzo Martucci l'altro giorno diceva è arrivata nel momento migliore, con il suo tennis migliore a questo torneo su una superficie che non è esattamente la sua. Io ringrazio Alessandro Merli da Wimbledon, che ritroveremo poi nel corso della giornata per i risultati di questa, di questo Ladies Day. Mentre lui parlava, caro Marco Bellinazzo, e per chiudere mi veniva in mente una canzone che Franco Piantanida voleva anche farmi sentire, farci sentire, no? Alla Fiera dell'Est. Tutte ste ragazze che giocano a Wimbledon, che si contenderanno il titolo, ragazze dell'Est, Criscito che tu volevi al Napoli e che invece è andato da Spalletti allo Zenit di San Pietroburgo, Rosetti che potrebbe andare ad arbitrare là, Hamsik che va di là e parla con la Pravda, e poi c'è qualcos'altro. Beh, non so, io direi soltanto una cosa per concludere, che non vorrei che poi Hamsik fosse afflitto dalla sindrome di LeBron James. Le stai tirando? No, per nulla. No? Io spero che resti a Napoli, ma se andasse lì vorrei che fosse afflitto da questa sindrome. E c'è un milanista che fa scongiuri di là dal vetro, non vi dico chi è. Intanto ringrazio Franco oltre che Marco Bellinazzo, che ritroveremo sempre in questi giorni d'estate. Ringrazio Franco Piantanida, autore di questo programma. Ringrazio Mauro De Angeli in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Domani, attenzione, domani data strana, particolare, molto bella. Vi porto al mare. Non vi dico come, dove e nemmeno con chi, ma state con noi. Domani alle 14.